l'avvocato di Concetta, quando appunto ho detto è il caso veramente di sospendere questo collegamento, di accompagnarla a casa, per fortuna c'era lui, l'ha accompagnata a casa. Detto questo, chi l'ha visto ha continuato la programmazione per un semplice motivo: c'era la Dandini già registrata, un programma di satira ironico, che senso aveva? Sarebbe stato fuori luogo. Ovviamente l'ha deciso, è stata una decisione dall'alto, non è che noi ci siamo impossessati della rete. Sì. Ma chi l'ha visto è andato avanti semplicemente per questo e poi ha dato linea. Ma quindi tutte le critiche, non so se oggi ho già avuto modo di vedere anche i giornali, insomma, i titoli parlano, per esempio Il Messaggero, TV del dolore, bufera sulla Sciarelli, oppure Avvenire molto duro, una pagina di spettacolo indecoroso, insomma, sono critiche esagerate oppure... Guarda, oppure c'è qualcosa che rivedendo 2 giorni fa forse non rifaresti più? Sì, ma guarda, adesso no, non in diretta eccetera, potrei rivedere tantissime cose, ma questo è ovvio per tutti. È ovvio per tutti. Le critiche vengono e io me le prendo e fanno crescere, e perché per carità va benissimo. Però devo dire una cosa, cioè le critiche da giornalisti quando si sa che la notizia la stavano dando tutti, cioè nessuno si era preoccupato di Concetta e di avvertirla, la notizia veniva data da altri giornalisti, quindi per questo dico un po' un problema un po' ipocrita, insomma, porla in questo modo. Per quanto riguarda le critiche dei politici, voglio dire chiaramente che c'è una legge in Parlamento che parla proprio del tema degli scomparsi e che viene abbandonata e ogni legislatura non viene mai approvata, quindi l'invito a criticare, per carità, quello che facciamo noi in televisione, ma anche ad approvare questa legge, sarebbe importantissima. Se ho tempo vi spiego perché, per i familiari degli scomparsi. Quello che mi dispiace è che le critiche alla Sciarelli vanno benissimo, non al programma, perché è un programma di servizio pubblico che si occupa di una tematica importantissima. Ci sono famiglie abbandonate che spendono i soldi con le medium, con i detective, e chi l'ha visto invece da 20 anni, io sono una figurina, i conduttori poi passano, da 20 anni si occupa di una tematica di cui non si è mai occupato. Ma per carità, ma su questo non c'è da discutere, io sono anche uno spettatore accanito, non ho visto la puntata proprio di mercoledì, ma voglio dire, vogliamo ricordare anche il caso di Elisa Claps, insomma tutte le vicende, ma le migliaia di vicende che avete contribuito a risolvere con questa trasmissione. L'altra cosa è questa: ma come, era in collegamento proprio dalla casa dell'omicida anche in questa situazione davvero incredibile, quasi kafkiana. No, perché Alessandro, dice... ma fa ridere, ma che è un'accusa questa? No, l'accusa è gravavano già molti sospetti sullo zio. Ma che no, ne è stato ma il problema, guarda, allora Alessandro, addirittura noi avevamo gli amici adulti, no? Che ovviamente ai quali avremmo chiesto: scusate, ma voi che rapporto avevate con Sara, eccetera. Era ovvio che però i tempi e i luoghi della scomparsa li dettava quella casa e li dettava Sabrina, perché lì doveva arrivare, lì non era arrivata, è scomparsa veramente, perché noi di chi l'ha visto facciamo a compasso e diciamo da dove scompare bisogna cercare, certo, lì vicino, certo. Ed Elisa Claps insegna, no? E anche naturalmente i fratellini di Grevina, quindi ci eravamo fissati, diciamo, in quel luogo, in quello spazio, eccetera. Dopo il ritrovamento del cellulare, ovviamente c'erano delle cose che non tornavano. Lo zio addirittura si era messo a piangere anche con noi, però c'era qualche cosa che non tornava proprio lì, in quel luogo. Quindi abbiamo chiesto allo zio, che probabilmente ha accettato perché voleva continuare a sviare, di fare la trasmissione, non lo so, ma noi abbiamo chiesto allo zio se potevamo fare da lì, perché quello era il luogo dove doveva arrivare Sara. La mamma era d'accordo, Concetta è venuta lì, abbiamo invitato anche gli amici adulti per capire con loro appunto i rapporti di una quindicenne con dei ventottenni, la situazione, ovviamente, ma tutti quanti lo sanno, quando si fa una diretta si decide prima, perché noi dobbiamo spostare i pulmini, certo. Quindi la diretta non è che è stata decisa mercoledì. No, ma tra l'altro io l'ultima cosa, Federica, io non so se hai letto oggi già Massimo Gramellini, col quale io concordo pienamente, oggi in prima pagina il suo editoriale è La macchina del dolore, parla ovviamente di questa vicenda, e tutti gli indignati che ci scrivono ancora mail, eccetera, tutti gli indignati a casa che hanno fatto i predicozzi a dire, poi che cosa è successo? Che l'Auditel ha certificato che tutti gli indignati a casa che pontificano oggi non hanno spento il telecomando, anzi c'è stato un boom di ascolti, e questo cosa deve far riflettere? Su cosa ci deve far riflettere? Ma guarda, io Alessandro voglio dire questo, io durante il momento in cui siamo stati in onda, a parte che io sono andata anche su altri argomenti, io non ho fatto una domanda, una a Concetta dicendo come si sente adesso, oppure non ho fatto una domanda sullo zio, se era un pedofilo, se lo sapeva che metteva le mani addosso a Sara, non ho fatto una. Era una situazione terribile perché, come dici tu, eravamo nella casa dell'assassino con la mamma della vittima e con la figlia dell'assassino che stava al di là delle telecamere e stava piangendo. Cioè non era una situazione facile. Questa cosa degli ascolti la trovo, veramente mi vengono le bolle in faccia quando l'ascolto. Noi abbiamo un programma fortissimo, chiudevamo, se non c'è la notizia di Sara, coglie degli ascolti ottimi mercoledì. Se la fascia dopo non è neanche la fascia di chi l'ha visto. Quindi se posso dire una cosa, ma è possibile che a me mi si chiede il problema se andate in onda per gli ascolti, ma insomma, ma noi facciamo un programma dove noi di chi l'ha visto abbiamo parlato di Elisa Claps dicendo che era stata ammazzata quando nessuno ne parlava. Cioè noi di queste ragazze ce ne prendiamo carico e vi assicuro che il dolore ce lo portiamo appresso perché siamo a contatto con i familiari, e di queste ragazze siamo gli unici a dire basta di parlare dell'adolescenza inquieta, c'è un occultamento di cadavere. Ma insomma, ma parliamo di della Orlandi, della Claps, della Teglia, ci sono dei casi che sono terribili. No, ma infatti la mia critica era magari a chi il giorno dopo criticava era quello che subito ha cercato col telecomando il canale di Rai 3, insomma, per vedere. Cioè questa era, non so, magari qualcuno prima, poi si è scandalizzato, però nel frattempo andava lì a vedere in maniera, se vuoi anche morbosa, che cosa stava succedendo. Ecco, questa era, diciamo, la riflessione che ha fatto Gramellini. È stata un po' impulsiva stamattina, Alessandro, con te, no, scusami, ma che quando toccano non me, ma veramente chi l'ha visto, mi dispiace veramente tanto, perché è proprio, cioè non si può dire qualcosa contro uno dei pochi programmi che fa davvero servizio pubblico, quindi se io ho sbagliato mi prendo tutte le responsabilità. Vabbè. Per carità, però insomma chi l'ha visto non deve essere toccato. Grazie Federica Cialeri, grazie Alessandro. Conduttrice di Chi l'ha visto su Rai 3. E allora noi ci fermiamo, insomma, poi lo leggerete, io quando ho letto la rassegna stampa davvero avevo i brividi, i resoconti della cronaca di come questo zio racconta l'uccisione e poi anche lo scempio successivo sul corpo del nipote. Vabbè, noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Rimaniamo a parlare comunque di Rai, altri temi, altra questione. Ieri il presidente della Camera Fini ha rilanciato questo tema: privatizziamo la Rai. Radio24.it per votare nel nostro sondaggio. 24 mattino. E allora alle 8:35 minuti, eccoci qua, ben ritrovati con il nostro sondaggio. Oggi parliamo di Rai, dopo aver avuto Federica Sciarelli in altri termini poco fa, parliamo di Rai e di possibile privatizzazione. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Privatizzare la RAI, un'idea vecchia per la verità, insomma, o meglio, che ogni tanto rispunta fuori. Ieri l'ha rilanciata il presidente della Camera Fini, vogliamo sentirlo proprio a Danno Zero, insomma, quindi una delle trasmissioni di punta della RAI, Fini. A partire dalla vicenda della RAI, io credo che sia arrivato il momento di privatizzarla la RAI, insomma, no? Credo che questa sarà un'iniziativa che gli amici di Futura Libertà proporranno al Parlamento anche in questa legislatura, perché va molto al di là, secondo me, la questione della pur necessaria questione relativa al pluralismo, relativo al contraddittorio. Ma... Senta, ma quindi tenere fuori i partiti dalla RAI? Perché secondo lei sarebbe sbagliato. No, dirò a lei, visto che... Ripeto, l'idea di privatizzare, tra l'altro la RAI, come dicono quelli che parlano bene, no, è un asset del paese, no? Magari entrerebbero anche un po' di denari freschi nelle casse dello Stato, ne hanno tante bisogno. Poi ovviamente bisognerebbe anche verificare chi eventualmente acquista, insomma, no, perché se parliamo di conflitto di interessi magari finiremo per renderlo ancora più manifesto. Ecco, questa finale è interessante, però è una stoccatina sulla quale magari ci cimentiamo. Voglio salutare l'onorevole Benedetto Della Vedova, buongiorno. Buongiorno. Il vice capogruppo di Futura e Libertà alla Camera. Il senatore Francesco Pardi, Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno. Pardi. Buongiorno. Ben ritrovato. Senta, Benedetto Della Vedova, mi risulta che sia lei l'amico di Futura e Libertà che presenterà o che insomma sta portando avanti questa proposta. È vero, volete privatizzare la RAI? Ma noi presenteremo lunedì una proposta, un piccolo studio redatto dall'associazione di cui sono presidente, che è libertiamo.it, e una proposta di legge vera e propria. Lei diceva che la privatizzazione della RAI non è una new entry. Io ho cominciato a fare politica nel 93-94 da radicale raccogliendo firme per un referendum sulla privatizzazione della RAI, che poi andò al voto 95 nel 95 e vinse il sì, cioè il sì alla privatizzazione. Nella legge Gasparri c'è la privatizzazione, però è stata congegnata in modo tale che non si è fatto nessun passo avanti, si può vendere solo l'1%, si può sindacare solo il 2% e non è successo nulla, tant'è che la governance della RAI va avanti con la norma transitoria della legge Gasparri. Mi dica allora, cioè, in concreto, la privatizzazione si realizza. Cioè, voi cosa, se ci può anticipare qualcosa, cosa sarebbe? Privatizziamola al 100%, tutte private? La RAI si privatizza, dal mio punto di vista, si privatizza al 100%, la new governance, le fondazioni. Io a questa ipotesi non credo, ci provano da 20 anni e la governance peggiora per colpa di tutti i partiti, tranne appunto i radicali, che sono il partito da cui io vengo. La governance peggiora perché ormai la partitocrazia è il DNA della RAI, dal dirigente all'ultimo dei dipendenti. Sì. Anche fuori partiti dalla RAI, infatti, sentiamo anche questa da un pochettino di tempo. È evidente che nelle parole di Fini c'è anche l'autocritica, nel senso che poi se il sistema è quello, uno non è che si tira indietro, perché sennò diventa cornuto e mazziato. Telegraficamente, privatizzare la RAI prima che faccia la fine di Alitalia, nuovo contesto tecnologico, media digitali, eccetera. O uno c'ha le spalle larghe, un management lungimirante, soldi da investire, oppure non resiste. Quindi prima che diventi un debito vendiamola, ricaviamo quanto? Un intorno di 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro, diminuiamo la pressione fiscale di 1,6 miliardi, aboliamo il canone, e questa operazione vale grosso modo quanto quella che in questa legislatura noi abbiamo fatto abolendo l'ICI sulla prima casa. Ah, una sorta di paragonabile a quello come cifra. Sì, stiamo parlando di questa cifra. Terzo punto della nostra proposta, che spiegheremo nei dettagli lunedì, non è la fine del servizio pubblico. Lo Stato mantiene l'impegno a garantire quelle trasmissioni che vengono ritenute di servizio pubblico, che non è il varietà del sabato sera, può essere in parte l'informazione, anche se oggi l'informazione che danno Sky e la 7, per dire, è un'eccellente informazione, peraltro già regolamentata dall'Authority, non è che sono senza regole. Sì. Ma le trasmissioni di servizio pubblico, quelli per le minoranze, trasmissioni sull'immigrazione, vengono mantenute agli immigrati, eccetera, vengono garantite dallo Stato e trasmesse sulle reti private. Va bene, ma sono un fondo finanziato senza canone, poi spiegheremo. Beh, elementi molto interessanti sui quali vorrei il senatore Pardi, su questi elementi, anche con cifre snocciolate, 4 miliardi di euro all'incirca, l'abolizione del canone, riduzione dell'1,6 miliardi di pressione fiscale, privatizzazione al 100%, che ne pensa, senatore? Prima di tutto che dire fuori i partiti dalla RAI è una foglia di fico, oggi bisogna dire fuori Berlusconi dalla RAI, perché la RAI è stata imbottita da anni di dirigenti Mediaset in tutti i posti di vertice, è guidata da Masi, che è stato spostato alla segreteria generale di Palazzo Chigi a comandare la RAI unicamente per fare da cinghia di trasmissione degli ordini di Berlusconi. Altri partiti c'hanno un po' di persone, sì, no? I partiti ci hanno inzuppato il biscottino, però in realtà oggi dire che i partiti comandano nella RAI in realtà non è la verità, perché oggi in RAI comanda Berlusconi. Però la RAI c'è da prima di Berlusconi, no? Sì, è nata ma purtroppo ora però c'è Berlusconi, per cui noi siamo in una situazione pazzesca, che il proprietario maggiore delle televisioni private è al governo e da lì comanda le televisioni pubbliche. Il problema è quello, prima di tutto. Allora io dico, si privatizza la RAI, ma allora si privatizza anche Mediaset, si stabilisce un criterio per cui... Che vuol dire? È già privata Mediaset? Lo so bene che scherzo, ma dico, ha senso privatizzare la RAI? Chi se la compra? Poniamo che se la comprino in tre, allora abbiamo dopo Berlusconi che ha tre reti e gli altri che ne hanno una soltanto, non funziona. Noi vogliamo un sistema dove esista una reale concorrenza, e voi diciamo che siete un giornale che è attentissimo alle questioni della concorrenza, dovreste concordare. la cosa fondamentale è garantire la parità di condizioni nelle possibilità della competizione economica. Ma è chiaro. Quindi, che voglio dire, c'è una questione sei soggetti che giocano alla pari. Però scusi, senatore Pardi, fuori dalla politica. Ma Fini mi scusi, l'ha detto nella battuta finale, cioè bisogna vedere poi a chi vendere, perché altrimenti appunto, il conflitto cioè se si ponesse una questione. Ma questa è un'altra questione, uno sarà la può porre. Myanmar magari se la compra, qualche emissario di Berlusconi. Secondo me non gli conviene, perché adesso ce l'ha senza pagarla, per cui dice. Io credo che il primo a essere contrario alla privatizzazione della Rai sarà Berlusconi, perché per adesso lui la comanda senza spendere una lira. Ce l'ha già, la Rai è di Berlusconi, dice. Della Vedova, su questo qua perché Fini ha detto, o meglio, perché Fini ha detto, bisogna vedere a chi venderla. Cioè, se no, siamo nel paese del rischio del conflitto di interessi permanente. Guardi, due cose. La prima è che dire che la politica nella RAI coincide col ruolo di Berlusconi nella RAI, è un falso storico, nel senso che l'occupazione politica della RAI è avvenuta soprattutto e prima da altri partiti, e in particolare peraltro dal centro-sinistra, ma questa però è una polemica sterile, quella di dire io sì, io tu, perché dopodiché la prossima legislatura ci sarà il centro-sinistra in ipotesi, e rioccuperà la RAI come prima, quindi il problema è proprio strutturale, non può essere una cosa partigiana, e questo fine ha detto. Secondo punto, ha ragione Pardi, probabilmente il primo a non essere felice della privatizzazione della RAI sarebbe Berlusconi, perché per un'azienda, per chi fa televisione in Italia, la RAI è un concorrente ideale, un concorrente che non investe, che ha i limiti alla pubblicità, che ha un controllo politico, per cui chiudi le trasmissioni che vanno bene. Allora lo fate apposta, vedete? Fate apposta per andargli contro. Ma non è vero, dopodiché lui, essendo un imprenditore, capisce che questo, immagino capisca che questo è una proposta anche lungimirante per salvare l'azienda. Ripeto, altrimenti fra 10 anni dovremmo mettere dei soldi per il fallimento della RAI. Io questo penso, anzi, chi la compra, è chiaro che quella di Fini era una battuta, perché ci sono già le regole antitrust. Ripeto, la privatizzazione della RAI in teoria poteva già essere avvenuta con la legge Gasparri, non è avvenuta perché con quell'idea dell'1%, chi è che si compra l'1% di un'azienda come la RAI senza contare nulla, non se la compra nessuno. Peraltro RAI, lei dice RAI come all'Italia, interessante, rischio RAI come rischio all'Italia, fallimento all'Italia prima della privatizzazione. Allora ci fermiamo alle informazioni sul traffico, poi ripartiamo da qui. Per ora il 72% di sondaggio su Radio24.it dice sì, privatizziamo la RAI, tra un po'. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora alle 8:47 minuti sentiamo, ci ha chiamato l'800240024 Massimo da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio Massimo, è insopportabile questa. Dica. Va bene? Benissimo, dica. Allora, io dovrei capire una cosa, perché io ho sentito gli interventi dei suoi ospiti, che sono interventi stupendi. Però io non ho ancora ben capito se la RAI è una TV pubblica o una TV di Stato. Per il semplice fatto che se un'emittente televisiva è di Stato, allora va bene, è gestita dallo Stato, è gestita dai partiti, tutto quello che è giusto da comune cittadino naturalmente che paga le tasse, pagare il canone. Come in Unione Sovietica. Come l'Unione Sovietica, esatto. Non credo e non voglio sperare che lei pensi che sia così, insomma, no, è una TV pubblica. Assolutamente. Dica. Ma dico, però se la vogliamo definire come TV pubblica, TV di servizi, è giusto che allora a questo punto, anche se è pura demagogia un discorso del genere, che fare in modo e in maniera che i partiti non c'entrino. E ripeto, questa è pura demagogia, perché non è mai esistita una cosa perché del genere. Perché l'editore è la politica, quindi insomma. Come? L'editore è la politica, non è la TV pubblica, quindi perché la politica, cioè il problema sta alla fonte, se l'editore certo, è la politica. Però se prendiamo il modello americano a questo punto, perché tanto si prende sempre i modelli americani, tutti i grandissimi network, CNN, BBC, tutto quello che è, sono comunque in mano a privati. Quindi lei, stringendo, la vorrebbe privatizzare o no? Cioè, la vorrebbe? Sicuramente sì, anche perché privatizzandola a quel punto lì, secondo me, secondo il mio modesto punto di vista, avremo una TV molto più decente, molto più aperta, con programmi chiaramente molto più in concorrenza, e forse anche una TV quantomeno meno inquinata. È chiarissimo, grazie Massimo. Voglio andare a Milano da Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica Andrea. Allora, io innanzitutto volevo capire una cosa, senatore Bardi del PD? Sì. No, dell'Italia dei Valori. Ah, ok. No, perché mi sembrava che quello che ha detto mi sembrava molto molto strano per il Partito Democratico, con l'Italia dei Valori già capisco di più. Niente, il mio intervento era questo, io sono abbonato anche a Sky e semplicemente quest'anno non mi interessava più l'offerta del calcio e ho tolto il pacchetto del calcio. Sì. Non vedo perché se a me non interessano i programmi che fa la RAI devo continuare a pagare il canone, e privatizzandola penso che questo obiettivo che io penso, cioè, per lei privatizzarla per togliere il canone, questo è il primo, questo è il succo. E poi credo anche che almeno non dovendo pagare per forza come dice il senatore Patti, Berlusconi che ha 6 televisioni, come dice lui, almeno mi tolgo lo sfizio di non pagarlo, anche se ne ha 6 non lo guardo e non lo pago. Va bene, grazie Andrea. Io, senatore Pardi, allora si spogli per un attimo dalla posizione, io anch'io seguo Della Vedova in questo un po' ideologica, le dico, si tolga dalla mente per un attimo, come me l'ha definito lei, il tacchino impettito una volta, tacchino impettito Berlusconi. Allora le chiedo, se si rispettano le regole antitrust, se si vende al 100%, se entrano 4 miliardi di euro all'anno, se si abolisce quindi il canone, quindi via i partiti da Rai, tutto questo la potrebbe convincere a una privatizzazione o neanche questo? Le rimane la mia risposta di prima, resta sempre il problema della preponderanza di un soggetto che è prevalente su tutti gli altri al di fuori della RAI. Io ho un'altra proposta, io propongo che il consiglio d'amministrazione sia formato da un numero di persone sufficiente, diciamo tra i 12 e i 15, raccogliere i soggetti provenienti dai settori più diversi della società, in modo tale da determinare alla fine il risultato che il Parlamento possa influire soltanto con 4 membri su 15, diciamo, no? Vabbè, ma gli altri selezionati in altra maniera, l'Accademia dei Lincei, l'Ordine dei Giornalisti. Ho capito, ma così la politica rimane, cioè dice in minoranza nel consiglio d'amministrazione. In netta minoranza. Ma voglio dire, allora tagliamo il nodo gordiano e privatizziamo, no? Così neanche c'è il problema del consiglio d'amministrazione, no? Lei dice no, c'è questo problema di fondo, questo macigno. Se stabiliamo di privatizzare, bisogna stabilire prima a priori una norma per cui qualsiasi soggetto sia presente sulla scena televisiva non può avere una posizione di dominio sugli altri. Quindi se privatizziamo e vendiamo la RAI a 3 proprietari diversi, Berlusconi deve vendere 2 delle sue reti ad altri 2 proprietari e alla fine giocare ad armi pari e non barare col digitale terrestre. Su questo sentiamo, prima di andare dall'onorevole Della Vedova a questa proposta, Enzo da Salerno che ci dice. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Lei la privatizzerebbe? Sì, subito, guardi, il problema non è Berlusconi, il problema è tutta la politica italiana dal mio punto di vista, perché si preoccupa sempre di Berlusconi. Allora, se Berlusconi, come è stato detto e come è vero, è il primo a pagare le tasse, voglio dire, il primo in termini di pagamento, di somma che porta allo Stato italiano, se Berlusconi è l'unico che avesse l'opportunità di comprarla, il problema è un altro, è che bisogna ritornare alla deontologia, all'etica dei giornalisti, che nel momento in cui si vedono bloccare le loro iniziative di approfondimento, di cronaca, eccetera, hanno le leggi a favore, cioè il mobbing. Cioè in Italia ci si preoccupa solo di Berlusconi e molto onestamente ogni giorno, è una volta le escort, è una volta la casa di quello, una volta chi ha ristrutturato l'altra cosa, il paese sta andando dove sta andando. E la RAI, voglio dire, alla fine oggi non è pluralistica domani ci preoccupiamo se dovesse essere pluralistica. Allora io credo che il problema non sia questo. Che l'approfondimento debba essere da parte dei giornalisti di fare cronaca, informazione seria e non stare al soldo di nessuno. Della politica, grazie Enzo. Allora, onorevole Della Vedova, vendere, dice Parti, sta bene, però anche Berlusconi deve cedere, giocare ad armi pari, cedere due canali. Sì, immagino anche Parti si rendesse conto che la governance ideale che lui suggeriva, consigli di amministrazione, Accademia dei Lincei, siamo in uno dei mercati più ferocemente competitivi, c'è Google che sta entrando, avrà successo, no, con una nuova visione della produzione e della distribuzione dei prodotti, quindi è chiaro che secondo me il problema non è di sterilizzare il potere dentro il consiglio di amministrazione, è di farne un'azienda vera. A Berlusconi non andrà comunque perché le regole antitrust ci sono già, non si inventano. Ma Pardi dice addirittura, perché se va a tre proprietari, per esempio privati da Rai, non è che sta bene così, cioè dovrebbe anche togliere un paio di canali, così tutti ad armi pari, uno con un canale, cioè toglierne due a Berlusconi. Guardi, sai, il digitale già crea condizioni diverse, ci sarebbero, se nell'ipotesi che andasse una rete, che l'azienda venisse spacchettata, uno può anche venderla tutta assieme, ci sarebbero quattro reti di quattro proprietari diversi, la 7, il primo, il secondo, il terzo, ma poi c'è rete 4, insomma, non è più un problema, tant'è che adesso mica lo dico per piaggeria, ma noi oggi facciamo questa trasmissione che 10 anni fa, 15 anni fa non esisteva, cioè una trasmissione, un dibattito di informazione aperto fatto su un canale che non è la RAI, sì, radiofonicamente. Sì, no? Questo vale anche televisivamente, il mondo è cambiato e noi ci teniamo una RAI. La RAI non è la BBC, si diceva una volta, questa cosa dei partiti è nel DNA, perché sì, la RAI è cresciuta così, le nomine sono sempre state così e non le nomine del consiglio d'amministrazione. E io non voglio manco gettare la croce addosso a chi a cascata faceva tutte le nomine politiche. A proposito di questo, un'ultima cosa della vedova che devo chiudere, c'è chi sui giornali ancora hanno fatto notare, certo, già Fini l'ha privatizzata la RAI, il cognato, la suocera, no? Qualche appalto, qualche trasmissione avuta anche a qualche familiare. Guardi, Fini, ieri mi sembra che l'abbia detto bene ad anno zero, è stato radiografato come in Italia, ahimè, non succede mai nei confronti dei politici, hanno trovato quelle pagliuzze. Che lui non sia fuori dal gioco, essendo stato un leader di partito per tanti anni, non è che AN non partecipava alla... No, lei dice, è già stato autocritico. Pardi, deve essere telegrafico, che vuol dire? A 10 secondi. Sì, separare la televisione dalla stampa. Se penso al trattamento che i giornali di Berlusconi stanno facendo adesso alla Mercigaglia, è fondamentale anche separare totalmente chi ha la televisione e non deve avere la stampa. Ah, addirittura. Va bene, telegrafico e la ringrazio. Ci fermiamo, il senatore Pancio Pardi, Italia dei Valori, l'onorevole Benedetto Della Vedova, Futuro e Libertà, i Finiani. Grazie ad Antonella Migliaccio in redazione e do la linea a Oscar Giannino, grazie anche all'alpino Peter Bescapè che andrà a fare il weekend in montagna, ovviamente. Noi ci ritroviamo lunedì alle 7:20.